diretta del sabato sera. In studio c'è Master Nick e siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del ristorante Convento. Buon ascolto. E ci siamo, è partita la diretta del sabato sera. Mazza, che spinte, hai visto, ho spinto proprio. È partita donnata. Ma dove è andata? Cioè? Sto qua. Oh. È intanto andata. Ma l'avete lasciato solo già. Intanto sta passando. Porca miseria. Così. No, sono emozionatissimo perché sono qui con Alex Angioletti, ormai hai un sacco di fan su Instagram. Ma dai, su, un po' qualcuno, no, non proprio tanto. Io sto vedendo un sacco di commenti in questo momento che stanno passando. Sì? Tipo, allora, Alex, diciamo che siamo in diretta grazie al Alex profilo Alex Angioletti DJ in diretta Instagram, ci potete guardare all'interno degli studi del Ristoradio Convento a Lonato del Garda. Sì, ma è uscito Alex. Un applauso per un applauso per Alex. Un applauso festoso. Okay. Sono le ore 22:13 proprio per testimoniare che siamo in diretta. Non sta grandinando, sono gli applausi, eh? No. Certo. Ah, fantastico. Allora, presentiamoci. Allora, alla mia destra al mixer, alla regia, abbiamo il nostro Mr. Dave. Ecco. Siede alla destra del del padre. Alla mia sinistra, colui che mi tradirà entro questa notte, è Giulia Scagliota. Ti ho già tradito prima. Sandrino. Ti ho già tradito Sandrino, prima. Ex spogliarellista ieri sera. Sì, dai, sì, ragazzi, sì, ecco, giustamente. Andiamo bene. Andiamo bene. Tra l'altro la signora Lella, si la signora Lella di Alberto Sordi. Esatto. Andiamo bene. Andiamo bene. Ok, gli amici a casa che ci stanno ascoltando, bene, sentono anche i sottofondi, anche gli interventi della regia tecnica, mentre che ci sta ascoltando su Instagram, purtroppo, ahimè, solo le nostre sento voci. Sento solo le nostre voci. Forse. Okay. Tanto allora, Sandrino, diciamo di sottorizzarsi sulla web radio. Allora, perfetto. Allora, se siete così molto interattivi, vi consigliamo di collegarvi in questo momento alla web radio Ristoradio Convento. Semplicissimo. Premi play e poi ci ascolti. Il DJ c'è, quindi basta dirgli. Sei DJ. Se non siete capaci, più che altro c'è Stefano. Se non siete capaci, vengo io a premere play. Ecco, basta. Oh, ma ti è piaciuta la battuta del classe 91? La battuta? Adesso è un po' in fascia protetta, adesso. Dovremmo spiegarla, però. Eh sì. Io suggerirebbe di no. Anche di no. Anche io dico possiamo di no. Andare avanti. Andiamo avanti. Allora, ieri sera Sandrino ha fatto veramente un gesto di solidarietà nei confronti del mondo femminile, si è prestato a un divertimento unico che era lo spogliarellista da 3,90 euro, come direbbero in Portogallo, obbligato. Ecco. È stato difficile? È stato veramente entrare nella parte del spogliarellista low cost a 3,90 è stato veramente a 3,90 difficile. perché c'era l'etichetta col prezzo, perché indossava un cappellino con l'etichetta ancora bene in vista a 3,90, ma in vista proprio, cioè proprio messo c'avevo proprio l'etichetta qui davanti. Cos'è? Cos'è partito? Ti stanno rubando l'auto, Alex? No. Che è? L'etichetta. Sì. L'etichetta, è vero, perché sono passato dal metal detector. Ok. Pensa un po' che giro largo con gli sketch di Mr. Dave. Esatto. Abbiamo fatto l'applauso alla regia. Ah, un applauso alla regia, spontaneo. Allora, stasera andremo a sentire un po' di selezione musicale un po' alternative, perché ci siamo permessi di creare una playlist a tutto punto, che è quella che va a spaziare nel genere, negli anni dell'ambiente musicale. Ci passa dal reggaeton agli anni 90, ok? Poi mi sembra di aver visto anche qualche brano pop. Insomma, non manca proprio nulla. Bravissimo. Si vede chi stavo salutando prima? Sì. No, vabbè, si capisce che noi di fronte abbiamo una vetrina, quindi diamo direttamente alla piazzetta del convento andiamo bene. E chiunque passa ovviamente ci distrae, quindi magari se qualche volta ci vedrete un attimo distratti è perché il flusso delle persone è talmente ampio che ci distrae. Sembra di stare ad Amsterdam. Ad Amsterdam? Però siamo noi, però, in questo caso. Siamo noi selezionati, siamo noi ricercati. C'è una coda pazzesca. Attenzione, quel ragazzo è come il limone, stringe. Spremuto. No, è allora cosa facciamo? Io ti potrei dire che potresti avere 29 secondi per introdurre la prossima canzone. Allora, che me l'ha già detto. Lo facciamo? Vabbè. Certo, lo facciamo. Sì, sì. Sei pronto? Andiamo a ascoltare la prima selezione. Voglio vedere 29 secondi, 20 secondi, cosa? 29? Proviamo? Beh, io faccio subito. Selezione anni 80. Che fai, non introduci? Entro tutto. Ah, così? Eh sì, vai, è partito. Vai. Che canzone è? Dov'è? Non lo sei tu il DJ? Ma no, lì. Dai, 15, di. Lo devo dire. Cosa dobbiamo ascoltare? Lo stiamo ascoltando. Ascoltiamo. Allora, su Ristoradio Convento abbiamo i Broski Beat con Smalton Boy, un grandissimo successo degli anni Ottanta. Non mi volevo fregare con la pronuncia, per questo. Entrati in diretta a Ristorato Convento, la conduzione Alex Angioletti, Sandrino e Mr. Dave alla regia. Oggi ci manca Master Nick, devo dire la verità. Sì, ciao, abbiamo Master ascoltato qualità, la qualità è calata. Sì, ma lui veramente è una biblioteca vivente, quel ragazzo lì, una cultura pazzesca, da spazia da qualsiasi cosa tranne che a cosa? argomento quello di... non si può dire, non si può dire. Però ecco, io voglio dire che non siamo mai rientrati in realtà, perché non rientreremo più, cioè... Io fuoriesco sempre comunque, dall'abitacolo. Oh, io arrivo, io lo getto dal finestrino, dall'onda fuoriesco. Sì. Allora per chi si fosse collegato in questo momento in diretta radio con le web, noi siamo comunque anche in diretta, ci potete guardare, siamo tre pirla. Vado per te, voglio dire. Esatto, perché ci fa partecipare? Anzi, loro sono pirla. Siamo tre piccoli porcellini. Siamo tre maialini. Bravissimo, no? Volevo dire pirla. Siamo in diretta a Risto Radio Convento, ma siamo in diretta a Instagram. Lo sai il porcellino che non dorme mai? No, non lo so. Maialetto. Maialetto, mannaggia. Che scemo, e io pure che sto lì ad ascoltare. Posso lanciare un quesito? Perché andiamo bene. Posso lanciare un quesito che mi così mi prendeva questa settimana? Cioè, insomma, lo devi dire per forza. Allora, ma chi ti ha chiesto niente? Ho fatto questo sondaggio e nessuno riesce a ricordarsi tutti i sette nani. Ah, provate no, a dire i nomi. No, ci penso proprio. Non ci penso. Provate adesso. Provate anche voi da casa. È difficilissimo. Se ne ricordi sei, scommetti? No, non me ne ricordo proprio. Tu te li ricordi, Mr. Dave? Io me li ricordo. Più che altro io mi ricordo. Vuoi entrare, Stefanuccio? Vuoi entrare? Che fai? Ha suonato? Scusate, è in pantofole, è con l'accappatoio. Ma si vede che ce l'abbiamo la regia stasera. Sì, stasera alta qualità. Intanto non perdiamo tempo, ma più che altro volevo dirvi, io sì, non so, non mi ricordo quelli dei sette nani, di tutti i nomi, però io mi ricordo l'ottavo nano. Ah, c'era anche l'ottavo nano? Sì. Lo sapete com'è? Attenzione alla battuta. Vai con l'ottavo nano. L'ottavo nano, quello super dotato. Eccolo. E sono io. Cioè, si autoelogia lui. Si è gelata la diretta. Ti giuro, si è climatizzata l'ambiente. È una vita che si autostimola, Dave. Porca miseria. Autostima. Se l'avesse detto gli applausi. Freddo, se l'avesse detto Rocco Siffredi, era l'ottavo nano a parlare. Però l'ha detto Mr. Dave. Tocca per male. Vabbè, ritorno in regia. Io ho dormito con Mr. Dave e posso. Posso confermare. No, allora, devo dire una cosa: che io e te abbiamo dormito nello stesso letto. Ah, ho dormito anche con te, tra l'altro. Ho dormito con tutti i miei colleghi. È pericolosa questa cosa, da dire. Però effettivamente è la verità, ho dormito. Quello schiaffo da cowboy. Io mi ricordo a New York, infatti, il risveglio alla texana di Alex Angeletti, fortemente consigliato alle ragazze, ma sconsigliato per i ragazzi. Ecco. Sì, vabbè, d'altronde passava questo il convento. C'era Sandrino il mattino, mi svegliavo con la schiaffa, con lo schiaffo praticamente, schiaffo texano. Il risveglio alla texana di Angeletti è uno schiaffone sul. Se volete provare, vi aspetto a casa. ecco, venite tutti a dormire da Angeletti. Sì, uno alla volta, perché non si dorme più. Facciamolo femminile, che è meglio. Ma perché... abbiamo qualche brano pronto? Sì, io sono prontissimo. Sì, ok. Non vedevo l'ora, tra l'altro. Ascolta, allora sposta su un attimo l'orologio. Ecco, che adesso Alex Angeletti ci presenterà il prossimo. Ma perché brano? Sempre io? Perché da qua non vedo io. Allora, cosa ci vuoi presentare? Allora, abbiamo selezionato un po' di brani del genere musicale, appunto, del palinsesto una convento. Selezione, ma una selezione. Ora. Ma io vorrei essere proprio avanti stasera. Vi voglio far ascoltare un disco che passerò stasera dalla pista. Sì. Ciao Bianca! Scusa, era così un saluto. Ciao Bianca, ciao. Bianca. Via, infatti, è partito su. Basta, non ti distrarre. È una bella ragazza. Passo tutta gnocca. Ciao Laura. Ci ha detto ciao. Ma certo, ci ascolta. Ok, fantastica questa tecnologia. Allora, passeremo più tardi, anzi, passerò dalla console principale del convento. Questo disco, Corona. Mado, ritmo? No, The Black Peas. Originale questo. Di che anno è? 93? Ho inventato, eh? Hai inventato? E Alex cosa dice? Di più? Di più o di meno? Di più. Ascoltiamoci, lanciamoci in pista. Corona! Abbiamo ascoltato Corona con The Read of the Night, era il pezzo del 1995. Ah, no, l'hai scoperto, eh? Sì, grazie al nostro internet, ma non avevo dubbi perché già, voglio dire. Tu c'eri, no? Io c'ero, posso dire che il brano ce l'avevo. Purtroppo lo posso dire anch'io. Io c'ero. No, no, ma il disco ce l'ho a casa. Io c'ero. Anche nel fior fiore della mia gioventù. Ok, no? Ma è bello raccontarsi senza che nessuno ti chieda nulla, eh? Attenzione, ritorniamo, Risto Radio Commento in diretta. Ma la regia cosa mi consiglia? I consigli della regia. Allora, signori e signori, se volete sfregare e sgrattugiare e ammaliare, ecco, comprate Smeril Dave. A che momento promozionale? Non so, i consigli della regia, sono mica... Ho sbagliato? Non era questo? Allora, abbiamo la musica di sottofondo in questo momento, giusto? Sì, certo. Ok, certo. Perfetto. No, ma io chiedo, perché sei super tecnologico, no, Master Nick è standard nel fare la regia. No, una regia incredibile, Ma abbiamo anche gli effetti speciali. Stasera siamo in diretta a Risto Radio Commento con Sandrino e Mister Dave alla regia, no, appunto. No, no, scusa. Sì. Con chi, scusa? Sandrino. Ok. Poi Mister Dave. No, aspetta. Con chi? Sandrino. E? Mister Dave. No, autoproclamazione. Ragazzi, si è autoproclamato. Si è autoproclamato. Incredibile. Incredibile. Cioè, scusa. Adriano! Ma bello, dovreste sentire, anzi ascoltateci. Allora, vuoi salutare qualcuno? Grazie, c'è DJ ragazzi. Rino, DJ grazie, Rino. Grazie. Grande Rino, nostro Rino? Rino Raffi. Ciao Rino Raffi. Ah, un nostro collega, un nostro amico che ci sta ascoltando, un intenditore musicale. La schiena. È cornuto, te lo riconosce. Grazie, mi fa le corna. Abbiamo ricevuto dei saluti sinceri. Ma da perché parte tutti di mi insultano? Non capisco. Un ospite del convento, però chi è? No, non fanno entrare questo che mi vuole menare. Allora, abbiamo qualcosa da raccontare. Mi fate entrare per piacere. Vorrei entrare. Cos'è? Che altro? Cioè, neanche chi è? Cos'è? È la vecchia degli 80 euro al mese. Ma volevi salutare qualcuno? Io? No, in questo momento sono terrorizzato. Ma ieri sera hai fatto amicizia con chi? Con chi ho fatto amicizia? Hai fatto amicizia con chi ieri sera? Con Roberta. Roberta, salutiamo Roberta di Pontevico. Roberta. Esatto, Roberta, Paola, Jenny la tennista, insomma tutto il gruppo delle ragazze di Pontevico che erano veramente simpatiche e speciali perché hanno fatto... È sul pezzo proprio, simpaticissime. Sì, hanno fatto un regalo di compleanno bellissimo. Poi volevamo salutare anche Giulia che ieri sera ha compiuto 18 anni. Ah sì? Sì. Salutiamola. La Giulia, poi abbiamo anche conosciuto Marta. Marta, dalle gare ancora lì. Pamela, la ragazza cavalletto, che ieri sera la prima cosa che ha fatto si è poggiata su questo bancone qui, ha fatto su una piega pazzesca. Che dall'esterno ha fatto uno splendido pezzo. La ragazza cavalletto, perché ragazza cavalletto? Dovresti vedere dall'esterno cosa si vedeva. Ah, c'è stato un entusiasmo plateale. Io ero lì che osservavo tutta la situazione e ho detto, hanno ragione. Giustamente, per quello è diventata la ragazza cavalletto. Ragazza cavalletto. E allora andiamo a salutare gli amici che ci stanno guardando, cioè ci stanno ascoltando solo la voce. Oh, incredibile, un maschio. A Roberto? È un maschio, lo lascio a te. Vai, saluta Roberto. Attenzione, è il primo maschio che si collega, sono tutte donne. Rino Maschio DJ. Allora, sì. Parliamo di musica. Cos'è? Cosa è successo questa settimana? Con la musica? Ah, c'è stata la finale di XY Factor. XY Factor? Sì, ero indeciso. Ero indeciso, ho fatto XY. E chi ha vinto? Appunto, perché ero indeciso, siccome non frequento. Chi ha vinto? Andiamo a cercare chi ha vinto il. Ah, non lo sai neanche tu. Sembrava che avesse vinto. Per me ha vinto la Maionchi. Per me e no. Per me e no. Sì, sembro? Sembra. Sì, vincitore del 2019 perché non ho avuto tempo di guardare le notizie. Tratto la data di nascita del Maionchi, la sapete? No. Mi sembra 1943. 43, per questo li manda sempre a dire. Non... 43. Anzi, dice non 43. Te le manda a dire. Adesso te lo dico? Sì, guarda che c'è, guarda. Chi c'è adesso? È una ragazza che di latino se ne intende. Più tardi ci sarà una dedica in latino. Ah, di latino. La conosci? No, cioè, è di latino, di latino. Eccola qua. Arisa ha vinto? No. No, non è Arisa. Una sosia. Vince Sofia. Loren. Torna bene. Torna Sofia chi? Cos'è? Vince l'X Factor 2019 Sofia. E quest'anno, signori, la vincitrice di X Factor 2019 è la signorina Sofia torna bene perché aveva già provato un altro anno, non aveva vinto, è tornata quest'anno e gli è andata bene. Certo, quindi torna bene. Po'. Allora stringiamo un pochettino il tempo perché il palinsesto musicale è veramente variopinto e andiamo a selezionare un altro brano. Cosa andremo ad ascoltare? 1943, l'età di Natalia Maionchi, nata nel 43, avevo ragione, 76. Brava. Grandissimo Arumberto, grandissimo Roberto. Attenzione perché abbiamo selezionato un disco di Daddy Yankee per le nostre amiche che ci stanno guardando da Instagram. È Shaky Shaky Shaky Shaky Shaky Shaky Shaky, quindi mi shaky shaky. Un po' di latino per Dalia, Dilia. Sì, sì, lei è intenditrice, lei si intende. Cos'è, Dilia 21? Dilia 24? Como è? Dammi una vueltita otra vez. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro, terremoto. Te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow. Nos matamos con el shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. La botella es arriba. Salen fiera por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra, tra. Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente al duri. Cuando le rozo el booty, le tiro sustancia más caliente que el churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura la embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si está pa'l bailoteo que se come este barco. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Tú la ves. Tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, dale duro. Terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, terremoto, fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene. Con el shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky, shaky. Tú la ves. ¿Cómo ya te vira al revés? Ay, qué jodona es. El Daddy Yankee, rey del micro. En la impro, como me filtro. Por eso chistro. Bellissimo il brano di Daddy Yankee, Shaky Shaky Shaky, terremoto, terremoto, terremoto. Siamo rientrati in diretta al Ristorato Convento, lo facciamo anche un bel saluto, approfittando anche della diretta, perché quando siamo fuori diretta, siamo in diretta però Instagram, e salutiamo Elisa. Puoi salutare Elisa? Farmacista? Ah, salutiamo la farmacista, perfetto. Ricordiamo che c'è in promozione in questa settimana la supposta, giusto? Che è stata quella più usata negli anni 80, però abbiamo scoperto quella di glicerina, effervescente, che ci sono vari gusti, cos'è che... Esatto, no, però tra l'altro voglio lanciare un messaggio a tutta la nazione stavolta. Anzi, perché... facciamo una cosa, Elisa, se ci stai ascoltando, mandami subito un messaggio su WhatsApp. Ecco, oppure lancia una supposta in aria. Ecco, no, perché stavamo filosofeggiando questa settimana sulla teoria della supposta dei... Oddio, abbiamo scoperto delle cose allucinanti. No, no. Allora, quanti di voi a casa... Trauma. Trauma, da piccoli sono stati costretti a prendere la supposta? Ma dove l'abbiamo presa? Lo supponiamo? Ecco, lo supponiamo e basta, ma penso che capiscono. E poi... in età matura è scomparsa la, la supposta. Cioè non sei più stato costretto. Cioè quando eri piccolo ti costringevano a prendere la supposta. Secondo me era una vendetta dei genitori quando facevi il birichino. Sì, ho detto va bene tu, vieni qua, vieni. Poi chi ha più preso la supposta dopo, dopo i sei anni? Diciamo chi? No, chi ha preso anche altro. È rivolto sia ai maschi che alle femmine. Sì, la sì. Supposta che è questo? È Umberto, Alberto. A Roberto, ecco, ha risposto dove si prende la supposta. Giustamente alcuni avevano dei dubbi e grazie a Roberto. Anche perché in Svizzera non la prendono lì. No. Ci sono tanti buchi e quindi si confonde. Allora, abbiamo sì. Scoperto che in effetti era una, insomma, quasi un'abitudine. Cos'è? Mi è partito un disco di Pippo Franco. Grandissimo, il nostro Pippo Franco. È una meteorite questa. La scelta musicale. È 80 quando sono nato io. Ah sì? La regia. No, questa era la puntura, non era la supposta però, Comunque, esatto, io voglio sapere chi ha preso la supposta dopo i sei anni nella loro vita. Cioè, è scomparsa? Almeno per me è scomparsa. Beh, Elisa mi sa che non ci sta ascoltando perché non mi ha scritto. No. Tra l'altro, ma esistono ancora, è vero, c'ha ragione la nostra ama al foto. Cioè, no, guarda che è veramente traumatizzante questa cosa. Sì, certo. Poi, tra l'altro, la mamma ti costringeva a sdraiarti sulle gambe. Sì, nel copertino di respirare ispirando. Attenzione, ma ritorniamo con la selezione musicale. F65, Move Your Body. Mamma mia che ricordo, 1999, posso dire io ho il disco, quindi è ufficiale. Risto Radio Convento, la voce di Alex Angioletti in compagnia di Sandrino, ormai proclamato DJ, è palese. Spalla destra dell'Albertino di Radio DJ. Faccio sia le pizze che sì. Metto i dischi, perfetto. È lo stesso movimento. Infatti sai la battuta di solito che io faccio agli chef? No, qual è? Io e te abbiamo una cosa in comune. Che cosa? I piatti. È incredibile. Pensavo il mattarello. Qui ci vuole qui ci vuole veramente un applauso. Te lo sei meritato. Grazie mille. A Umberto, ascolta tutto, abbiamo chiuso la porta che entra l'aria. Sì. E poi attenzione perché la regia questa sera è curatissima, abbiamo tutti veramente gli interventi a posto giusto, sì, gli applausi. Ragazzi, ecco, a questo punto io vi dico che abbiamo ancora un minuto. Un minuto e ci salutiamo. Esatto. La diretta finisce qui. Dammi per questo sabato Dinner Dance. Solo un minuto. Sì, sì, sì. Allora andiamo a dire cosa andiamo a fare questa sera. È sabato Dinner Dance del convento in piazzetta in diretta. Siamo qui dalla radio, però in questo momento i nostri amici stanno mangiando, stanno cenando, stanno festeggiando, ma più tardi ancora di più, perché verranno consegnate le torte e si scambieranno tantissimi auguri, perché questa sera ci sono tanti amici delle aziende che approfittano di stare un momento assieme e di tirare un attimo. Cos'è? Mi abbracciano. Vuole stare un momento assieme? Ah sì, assieme. Allora ci salutiamo ancora presto. Un minuto, quanto manca la regia? Sì, sì, sì. Ok, in un minuto può succedere tutto. In un minuto può succedere tutto. Allora vuoi salutare qualcuno, la Enza? Io a Rumberto, perché... Allora salutiamo gli amici che ci hanno seguito, veramente affezionati tantissimo, sulla diretta di Instagram di Alex Angioletti DJ, che sono io. Grazie di cuore, noi tra pochissimo chiudiamo, vi auguriamo un buon sabato, ma se non avete nulla da fare... Anche buona domenica. Anche buona domenica, insomma, giusto, grazie, ecco. Buon lunedì. Anche buona settimana. Anche buon Natale. Chi l'avrebbe detto? Beh, è il solito che rompe le palle all'albero quello lì, esatto, esatto. Incredibile. Allora salutiamo tutti, vuoi salutare per nome? Sì, sì, salutiamo gli amici della diretta Instagram, anche il famoso, il mitico ormai Arumberto, la Amalfoto, sì. La Bianca, la Laura, Rino, la Laela, la Isa, la Giovanna, ma quanti sono, tantissimi. Buona Pasqua, grande vuoi Umberto. Avanti. Attenzione, Ristorato Convento, Alex Angioletti, Mr. Davis, Sandrino, vi auguro una buona serata. Noi siamo qui fino a presto del mattino. Faccio un ballo a tutti. Sulle mani! Vado a prendere la supposta.